sarebbe difficile, lo so, però è mia tua. Musica allo stato puro, ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace che spera, veloce per più lenta, violenta e sincera. Musica più lenta che pace che spera, veloce per più lenta, violenta e sincera. Chi viaggia poco resterà piccino, il cammino di Gigi D'Agostino. Ecco qua, va. Signore e signori. Signore e signori. No, vabbè, dai. Gigi D'Agostino. Buono così. Buono così. Buono così. Buono così. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Sì, sì. Ciao. Ciao. Ciao. Posso andare? Vai! È il mio momento. Certo. Buongiorno, questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Una grande famiglia danzante. M2O. Allo stato puro. Allo stato puro. Ogni giorno, ore 18. Il cammino di Gigi D'Agostino. Queste non sono noccioline, ma boom a mano. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Oh,

Il cammino e Gigi D'Agostino si fanno una viaggiatina fino a Messina. Ci vediamo lì. La spiegazione ve la do adesso mentre sto qui, ma poi noi ci vediamo lì. Con le musiche e le storie suonate da me. Vieni anche te. Per maggiori informazioni sui due eventi siciliani, clicca sui tasti, ma usa le mani. www.gigidagostino.com. Pom pom parom parom pom. Vai nel forum e comincia a cercare. Se non trovi, ti fai aiutare. La differenza la fa chi balla, chi non si muove una palla. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. È vero, è vero. Tutti insieme, a tempo. Dai e po' giù le mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano. Ascoltando del cammino balla Gigi D'Agostino. Questi passi d'Agostino sono Gigi del cammino. E ascoltando del cammino balla Gigi D'Agostino. Questi passi d'Agostino sono Gigi del cammino. Passi, passi del cammino. Tu sei Gigi, tu pulmino. Questi passi del cammino sono di Gigi D'Agostino. La frequenza è codesta e la musica pesta. E la musica pesta. Sì, sì. La frequenza è codesta. A cosa? Non mi ricordo cosa dovevo dire. M2O. Il cammino di Gigi D'Agostino.

cammino di Gigi D'Agostino. Let them go, we go, those go, we go, let them go, we go, those go, we go.

spesso e non torno più. Non torno più. Parole chiare dentro me mi spiegano che senza di me e senza amore nella strada non c'è. Rimango sulla strada che non so dove, però lei c'è. Ci porta su, non torno più. Non torno più. Non torno più. Gigi D'Agostino vi saluta tanto tanto tanto tanto.